na hili bala. Mtoto yuko smart ni ndo fala. Na nipa ishara nifate mbezi bitch sala sala. Ato amini napiga mapicha nipate contenti. Contenti posti na insta nipate commenti. Comment. Sijili kwa je kubagawa na mimi. Toto swailin ni ulizie nyala takanini. Misina kitu zaidi mpini anasema aje. Anataka aje. Amepata wanamsela. Namsela. Mama mia geto la msela. Namsela. Acha ni mpeleke moto. Doctor, acha nimpeleke. Worldwide intellect.